dopo 20 secoli egli è il personaggio più importante del genere umano. Tutti gli eserciti, tutti i parlamenti, tutti i re del mondo, tutti quanti messi insieme, non hanno influito così potentemente sulla vita e sulla storia dell'uomo. E questo perché Gesù Cristo non è solo un uomo, ma anche Dio. Proprio per questo quello che lui ha affermato non ha paragoni di nessun genere. Quando disse: «Vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati», sosteneva di essere il nostro Creatore, il nostro Salvatore, Re, Pastore, il nostro Dio che ci ha fatto conoscere la persona del Padre e dello Spirito Santo. Cosa comporta tutto questo? Se Gesù è Dio, ed egli è morto per me, allora egli è degno di essere adorato e servito, per cui non vi è sacrificio troppo grande che io possa compiere per lui. Pensieri da rivedere, Mena, giunta il 25 dicembre 2004. Negando questa affermazione ci si rende colpevoli della menzogna fondamentale. L'Apostolo Giovanni scrive: «Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Costui è l'Anticristo, che nega il Padre e il Figliuolo. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre». 1 Gio versetto 2, 22-23. Giovanni chiama bugiardo per eccellenza non chi nega semplicemente che Gesù è il Messia, nel senso di colui che doveva venire, ma chi nega la sua divinità, cioè che egli sia Dio. Infatti, l'Anticristo nega il Padre e il Figlio. Se Gesù non è una stessa sostanza col Padre, allora non è di Dio, che vediamo rivelato nella sua vita e nella sua morte. Non è Dio che è morto per noi, non è Dio che ci ha salvati. Giovanni afferma che chi non riconosce pubblicamente Gesù Dio non ha comunione con il Padre. La prova dottrinale fondamentale di chi si professa cristiano concerne la sua valutazione della persona di Gesù. Lo afferma la Scrittura, lo ha affermato Dio Padre e Gesù stesso, lo hanno confessato come tale i primi cristiani. Di fronte a una tale evidenza non si può rimanere nel dubbio, e tantomeno nella neutralità. Gesù non si presenta a te come un grande filosofo, al quale potresti anche rispondere: «La filosofia non mi interessa». Egli non si presenta come un grande generale cui potresti anche rifiutare la tua approvazione, perché hai orrore del militarismo. Non è neppure un capo di partito di fronte al quale tu potresti alzare le spalle e dichiarare: «Non faccio politica». Non si presenta come un poeta del quale tu potresti anche ridere dicendo: «Non ho tempo da perdere». Né infine si presenta come un grande Egli si presenta come Dio. Di fronte a lui o si cade in ginocchio o si voltano le spalle. Il tuo futuro eterno dipende dalla posizione che prendi nei suoi confronti. Gesù disse: «Chi non è con me è contro di me». Ancora una volta Gesù afferma che se non sei dalla sua parte, se non lo confessi come egli si è presentato, cioè come Dio, anche se non hai nulla nei suoi confronti o sei un suo ammiratore, sei contro di lui. Devi decidere. Il non decidere è già una scelta. Ascolta la tua ragione, perché essa, appoggiata dalla fede, pende dalla parte che è più conveniente, più ragionevole, più consona alla nostra natura umana: riconoscere, confessare, adorare, servire Gesù, l'unico vero Dio. Una volta un credente diede una copia del Vangelo di Giovanni ad un musulmano che era studente in legge, cercando di interessarlo. Ma costui glielo riportò dicendo: «Questo libro parla di un tale che viene chiamato Parola di Dio e dice che egli era con Dio e nel medesimo tempo era Dio stesso». «Ma come può una persona essere con se stessa?» Il credente gli rispose: «Poniamo che né lei né il suo professore sappiate risolvere un problema di matematica. Questa vostra incapacità chiarisce almeno una cosa, e cioè che né lei né il suo professore avete inventato il problema. Ora, la domanda che lei mi ha fatto è appunto un problema non di matematica ma di teologia, il problema del essere e della natura della Trinità di Dio. Migliaia dei più profondi cervelli hanno per secoli cercato di penetrare questo mistero senza, tuttavia, riuscire a spiegarlo. Chi lo ha inventato dunque? L'uomo può spiegare ciò che è stato inventato da un suo simile, ma se non si può spiegare una cosa vuol dire che quella cosa non è stata inventata. Deve trattarsi dunque di una rivelazione. Radio 2003, Ellero.